Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Cuore e Denari. Intanto sì, stiamo completando ancora l'assetto della trasmissione di questa mattina con Marco Lombardo, che continua a portarmi delle veline sulle notizie che vi racconteremo oggi. Ve ne sarete già resi conto, oggi sono da sola, Nicoletta mi ha lasciato, però due temi di salute molto interessanti. Noi in apertura, nella parte dedicata alla nostra rassegna stampa sui temi di salute di cuore, ci occuperemo di AIDS, di Zika in vista delle Olimpiadi di Rio, ci occuperemo anche delle riunioni da fare in ufficio ma magari in piedi. È un vantaggio o no per i diretti interessati? Per quello che riguarda invece i temi di economia e finanza familiare, daremo come sempre, lo faremo tra pochissimo, un'occhiata all'andamento della giornata di borsa, ma poi nella seconda parte del programma ci occuperemo di assicurazioni a 360 gradi con un'intervista a tutto campo alla presidente dell'ANIA, l'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione, Maria Bianca Farina. Avremo tanti argomenti di cui parlare, dall'RC auto alla previdenza complementare alle polizze per la sanità integrativa, per cui per tutti questi argomenti vi ho fatto una presentazione abbastanza sintetica di tutto ciò di cui parleremo, ma potete intervenire su tutto all'800 24 00 24, oppure potete scriverci al 349 238 6666. Come sempre riceviamo i vostri sms, ma anche i vostri sms su WhatsApp, per cui adesso siamo pronti per partire. Parte molto bene la seduta di borsa questa mattina con rialzi diffusi. Abbiamo più 1,38% a Parigi, più 1,28% a Francoforte, Londra in rialzo dello 0,14%. Questa mattina è stata di nuovo scoppiettante anche la seduta a Tokyo, più 2,46% grazie all'indebolimento dello yen, ma soprattutto a spingere i mercati nelle ultime ore sono stati anche i nuovi record di Wall Street, in particolar modo dell'indice Standard & Poor's 500. Vedremo peraltro anche oggi come aprirà Wall Street, perché è stata inaugurata la nuova stagione delle trimestrali e a causa del continuo calo dei prezzi dell'alluminio, la società che per prima inaugura, appunto, che per prima rassegna i suoi risultati ogni trimestre, Alcoa, ha chiuso l'anno con utili in calo del 3,6% rispetto allo scorso anno. Quindi vedremo oggi cosa succederà, ma direi di andare subito a dare un'occhiata a Piazza Affari, dove la seduta è nettamente la migliore d'Europa. Rialzo sul FTSE MIB dell'1,66%, sta letteralmente spiccando il volo Unicredit, più 9%. Il gruppo nelle ultime ore ha fatto sapere di aver ceduto con una procedura di collocamento accelerata il 10% di Fineco, di cui comunque continua a detenere oltre il 55%. Il titolo, appunto, di Piazza Gaia Olenti, adesso la chiamiamo così, prima la chiamavamo la banca di Piazza Cordusio, guadagna quasi 9 punti, ma vanno molto bene anche altri titoli del comparto bancario stamane. Mediobanca più 5,56, UbiBanca più 5,43, Intesa San Paolo più 4,83, questa mattina bene anche Pop Emilia Romagna più 4,27, Fiat Chrysler più 4,25, Generali più 3,46%. In discesa abbiamo invece Fineco, benché proprio per effetto del prezzo stabilito per questa accezione. Il titolo in realtà è anche in miglioramento, perché adesso perde circa 3 punti, in avvio la perdita era un po' più forte, abbiamo un calo di circa un punto anche per Luxottica e Terna. Oggi il Tesoro italiano assegna in asta bot per 6,5 miliardi di euro. Apriamo la rassegna stampa di Cuore con un'altra buona notizia, con una buona notizia. Allora, i maggiori ricercatori e l'Australian Federation of AIDS Organization hanno decretato la fine dell'AIDS come problema di salute pubblica in Australia, affermando che il paese si unisce alle poche nazioni nel mondo che hanno debellato l'epidemia. Il sensibile calo del numero dei casi ha avuto inizio con l'avvento, a metà degli anni 90, dei farmaci antiretrovitrali, ma che impediscono al virus da immunodeficienza acquisita di progredire, appunto, in AIDS. Ma essenziale è stato anche, come ha ricordato il direttore della federazione, appunto, che vi ho detto prima, la FAO, Daryl O'Donnell, l'attivismo nella comunità omosessuale nel promuovere un'informazione capillare. Allora, noi vogliamo commentare questa notizia con il professor Massimo Andreoni, professore di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma e presidente della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali. Buongiorno professor Andreoni, ben ritrovato a Cuore Denari. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Commentiamo subito questa notizia appunto australiana, dove il numero dei casi è sensibilmente diminuito. A chi va il merito, professor Andreoni? Beh, innanzitutto diciamo appunto debellare, forse è un termine un po' forte. Sono riusciti a ridurre in maniera drammatica, diciamo, i nuovi casi, quindi siamo vicini a riuscire a debellare questa epidemia. Perché questo è accaduto? Perché è stata fatta una cosa molto semplice, cioè sono stati trattati tutte le persone con l'infezione, nell'idea che trattando tutte le persone che hanno questa infezione, queste persone non possano più trasmetterla ad altri. Quindi è un qualche cosa di semplice, però semplice a dirsi, difficile a farsi, perché trovare tutti gli infetti e trattarli non è così facile. Certo. Professor Andreoni, dall'Australia, che è molto lontana da noi, anche se naturalmente questa notizia ci fa piacere in un mondo globalizzato, non solo dal punto di vista finanziario, che è il tema che tocchiamo frequentemente, ma anche dal punto di vista appunto delle scoperte scientifiche e della ricerca in questi campi, appunto veniamo a casa nostra. In Italia la situazione qual è in questo momento? È ottima nei termini che noi riusciamo a trattare con un successo che non ha eguali al mondo, cioè l'aspettativa di vita dei malati con HIV in Italia è la migliore al mondo, quindi un risultato fantastico. Meno buona per quanto riguarda invece proprio il controllo di questa infezione. Ormai sono 4-5 anni che in Italia ci sono sempre 4.000 nuovi casi, quindi non riusciamo a ridurre l'emergenza di nuovi casi. Perché si calcola che in Italia esistano 30.000 persone che sono infette e non sanno di esserlo. Quindi su questo dobbiamo lavorare, se no otteniamo ottimi risultati quando trattiamo, non otteniamo gli stessi buoni risultati in termini di contenimento dell'infezione. 30.000 persone che sono probabilmente infette non sanno di esserlo. Adesso commentiamo anche nello specifico questo punto. Professor Andreoni, però le volevo chiedere un'ulteriore precisazione a proposito della questione dell'aspettativa di vita. Lei diceva in assoluto il dato in questo, su questo punto è il migliore al mondo. A quanto ammonta l'aspettativa di vita di una persona appunto che ha questo problema? Chiamiamolo così. Guardi, certo, ormai possiamo dire che una persona che ha l'infezione di HIV ha un'aspettativa di vita che è di 4-5 anni minore di una persona senza questa infezione. Quindi stiamo raggiungendo un'aspettativa di vita che è quella di tutto il resto della popolazione. Questo era impensabile fino a pochissimi anni fa. 30.000 persone infette che non sanno di esserlo, è il cosiddetto sommerso, per questo si consiglia il test, che è anonimo e gratuito, ma se uno non ha neanche la sensazione di poterlo essere, professor Andreoni, immaginare appunto anche di effettuare un test, come dire, è una questione un po' complessa. Detto questo, però, suggeriamola a chi dovrebbe avere, quantomeno per tenore di vita, stile di vita, appunto immaginare di doverlo fare, dobbiamo suggerirlo. Assolutamente sì, il grande risultato ottenuto in Australia, come ha detto giustamente lei, è stato ottenuto anche grazie al supporto delle associazioni che hanno fatto un lavoro fantastico nel motivare le persone a fare il test. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo e dobbiamo trovare tutte le occasioni per dirlo. Fare il test è gratuito, fare il test conviene per se stessi e, come abbiamo visto, conviene anche per chi ci sta intorno, diciamo. Ecco, quindi trovare prima l'infezione vuol dire curarla meglio e bloccare l'epidemia. Credo che siano motivi sufficienti perché tutti debbano fare questo test. Allora, come abbiamo già spiegato ai nostri ascoltatori, lei è un luminare nel campo delle malattie infettive. Professor Andreoni, allora, manca meno di un mese all'avvio delle Olimpiadi di Rio. C'è stata frequentemente della preoccupazione legata alla diffusione del virus Zika. Com'è la situazione oggi? Ma la situazione sta migliorando, cioè i casi si stanno riducendo perché stiamo andando incontro alla stagione meno propizia per le zanzare, in Brasile ovviamente, qui in Italia siamo invece nel periodo, diciamo, peggiore come stagione, però quindi la situazione sta migliorando, ci sono meno casi, però certo la possibilità che uno si prenda ancora il virus Zika andando in Brasile è possibile. Ai fini dei giochi olimpici, devo dire, questo rischio comunque si sta riducendo molto, quindi una persona che va in giro per il mondo, ovviamente il rischio di prendersi un'infezione esiste sempre. Certo. Rinunciare per questo ad andare a fare i giochi olimpici secondo me non mi sentirei di consigliarlo. Un po' la testa inutilmente. Sì, un pochino sì, perché poi uno va in giro, si prende l'influenza, si prende una gastroenterite, quindi diciamo va messo un po' nell'ordine delle cose. Ogni tanto succede che qualche atleta non può partecipare ai giochi perché mentre sta nella sede dove si svolgono si prende un'infezione. Quindi questo, diciamo, non credo che sia oggi un motivo sufficiente per dire di non andare ai giochi. E infatti, a proposito di atleti che rinunciano, proprio stamattina abbiamo letto sui giornali di Jordan Spieth, numero 3 al mondo nel golf, si aggiunge alla lunga lista di golfisti che rinunceranno ai giochi di Rio a causa della minaccia rappresentata appunto da Zika. Questo presumibilmente, professor Andreoni, per il proprio tipo di sport in cui devono cimentarsi, praticare un campo da golf forse mette un pochino più a rischio rispetto ad un atleta che pratica un'altra disciplina sportiva. Sì, questo sì, sicuramente, perché come sappiamo poi i campi di golf prevedono degli stagni, degli acquitrini e quindi zone in cui la zanzara può abbondantemente, diciamo, svilupparsi, quindi un po' più di rischio. Devo dire anche che i giocatori di golf normalmente hanno una tenuta che li protegge abbastanza, sì. No? Se pensiamo rispetto a un atleta di atletica leggera, faccia conto, certamente più esposto, però diciamo sicuramente la zona che loro frequentano, i campi di golf, sono leggermente a maggior rischio di puntura di zanzara. Professor Andreoni, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Anche a lei e a tutti i radioascoltatori. A presto. Buongiorno. Grazie, a presto. Noi adesso abbiamo i nostri suggerimenti per chi è in viaggio, ma torniamo immediatamente. Cuore e denari. Eccoci ritrovati insieme e continuiamo la nostra rassegna stampa di oggi. Passiamo a segnalarvi un'importante iniziativa dedicata ai bambini ricoverati in ospedale. Iniziativa promossa da Biciclette contro il dolore, lo storico appuntamento in cui medici, farmacisti, operatori sanitari e membri di associazioni di pazienti salgono in sella per sensibilizzare l'opinione pubblica sul diritto a non soffrire, sulle possibilità di cura del dolore garantite a tutti i cittadini. Allora, avete tempo, segnate questa data fino al 17 settembre per contribuire con un semplice like, sapete bene qual è la procedura utilizzando Facebook, a donare delle giornate di soccorso clown negli ospedali pediatrici. Cosa dovete fare? Vi basterà cliccare mi piace al post. Prendete nota. Un mi piace contro il dolore, un sorriso per chi soffre, pubblicato sulla pagina Facebook di Biciclette contro il dolore. Si contribuirà così alla donazione di giornate di soccorso clown negli ospedali pediatrici. Per ogni 1000 mi piace raggiunti da questo post, Grünenthal Italia donerà una giornata di soccorso clown ad un ospedale pediatrico italiano, fino ad un massimo di 10 giornate in altrettante strutture. Soprattutto nel caso dei bambini, al dolore fisico, lo sapete, si aggiunge anche quello psicologico. Per questo un sorriso per chi soffre, dedicato proprio ai più piccoli. Noi ci sentiamo naturalmente in prima linea nell'adesione a questa campagna per regalare un sorriso a tutti questi piccoli pazienti speciali. A proposito di bambini, parliamo anche di mamme. Una ricerca della Thomas Jefferson University negli Stati Uniti ha decretato che l'esercizio fisico durante la gravidanza è sicuro e non aumenta il rischio di andare incontro ad un parto pretermine, come temono addirittura molte mamme. In più, le donne che praticano attività fisica addirittura hanno meno chance di fare un cesareo. Gli studiosi hanno preso in esame i dati di 9 studi, analizzando complessivamente 2059 donne in gravidanza, una metà circa delle quali aveva fatto esercizio per 35-90 minuti 3 o 4 volte a settimana per ben 10 settimane. Questo campione è stato messo a confronto con un altro gruppo che invece non aveva svolto attività fisica. Cosa è emerso dai risultati? Che non vi era un aumento significativo delle nascite pretermine, prima di 37 settimane di gestazione, nelle donne che si erano esercitate regolarmente. In più vi era un ricorso minore al cesareo e non solo, le donne più attive dal punto di vista fisico risultavano avere meno pressione alta, fattore di rischio per lo sviluppo in una condizione detta gestosi, che può essere pericolosa, e oltre a tutto questo sviluppavano anche meno diabete gestazionale. Per cui, insomma, mamme in procinto di diventarlo, quantomeno muovetevi, perché lo sport e l'attività fisica vi fa senz'altro bene. E il movimento, lo sappiamo però, Nicoletta lo raccomanda sempre, non fa bene soltanto alle future mamme. Secondo un gruppo di ricercatori dell'Università di Miami, anche fare riunioni di lavoro camminando, camminando, fare delle riunioni di lavoro camminando. Immaginate un po' questa circostanza all'interno del vostro ufficio, sarebbe un toccasana per la nostra salute. Allora commentiamo questa notizia con la professoressa Daniela Lucini, responsabile della sezione di medicina dell'esercizio e patologie funzionali di Humanitas, che salutiamo. Ben ritrovata, professoressa Lucini, buongiorno. Buongiorno Deborah, come va? C'è tutto bene, grazie. Stavo già immaginando, vabbè, comunque a noi capita qualche volta, però camminando andiamo alla macchinetta del caffè con i miei collaboratori. Vale lo stesso? Insomma, se la strada è molto lunga si potrebbe facciamo le scale facciamo le scale, scendiamo facendo le scale, risaliamo facendo le scale con un caffè rigorosamente amaro, però ogni tanto ci sta. Devo dirle che con me funziona ogni tanto, anche quando ho magari qualche cosa in mente di lavoro da stabilire, questa camminatina verso il caffè appunto aiuta. Però ci racconta in realtà questo studio che arriva da Miami. Ecco, sicuramente il camminare mentre si lavora è una cosa che è importante e aiuta sia la parte fisica, nel senso che, come dice appunto lo studio, è un'occasione per riuscire a muoversi, e potremmo aggiungere certe volte aiuta anche veramente l'ideazione, il lavoro che si sta facendo. È chiaro che questo è più che altro uno studio che provoca un po', nel senso che bisogna calarlo in quella che è la realtà del lavoro vera e propria. Diciamo che sicuramente fare che quello che lo studio ha fatto vedere, cioè organizzare delle piccole riunioni di lavoro tra poche persone, camminando anziché rimanendo sedute alla scrivania, è una cosa che potrebbe avere un suo significato quando appunto io devo riunire poche persone. Certo che se io ho una riunione con 20 persone non ha senso, ma se ho 2-3 persone devo parlare con il mio collega, al posto di stare fermi o di stare seduti, il uscire magari adesso che c'è il bel tempo a fare una camminata o anche camminare nel corridoio sicuramente può essere uno spunto. Questo perché? Perché ormai tantissimi studi stanno facendo vedere proprio quello che si dice normalmente, cioè che ogni occasione è buona per fare movimento. Quindi anche il camminare normalmente in un corridoio di ufficio è meglio rispetto allo stare fermo. Professoressa Lucini, ho solamente 20 secondi di tempo, ma un commento voglio farglielo fare a questa proposta del ricercatore americano Daniel Howell, che sostiene che bisognerebbe addirittura camminare senza scarpe. Ma su qua potremmo discutere. In ufficio magari non è carino, ecco. In ufficio non è carino, fuori bisognerebbe discuterne un po', diciamo che dipende molto dalla postura che una persona ha, da come è fatto, e poi va comunque tenuta presente la questione della sicurezza, certo. Perché io cammino, poi mi taglio, mi faccio male, prendo infezioni, forse camminare con delle belle scarpe da tennis giuste per camminare o per correre, forse un po'... Ci faremo una bella puntata, visto che adesso è estate, ci piace molto insomma tenere il piede libero. Grazie professoressa Lucini, buona giornata. Noi diamo subito la linea alla redazione per il giornale radio, ma torniamo subito dopo. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a un'Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. Cuore e denari. Parcheggiato col mio camioncino, tirai il freno a mano con questa mano qua, quando lo potevo tirare il freno a mano, e parcheggiai. Ero lì tranquillo, quasi per addormentarmi, pum! Ma arriva una botta di dietro, ma tremenda! Ho sbattuto la testa nel vetro davanti e sono svenuto. E mi sono svegliato così. Anzi, mi è andata bene. C'è gente rimane cieca, sorda, paralizzata. Hai capito? Mi dovreste dare di più! Mi sono rovinato, anzi, non posso fare più niente, né mangiare, leggere, scrivere. Mi dovreste dare il doppio, il triplo, il quadruplo, perché siete voi assicurazioni. Va bene, va bene. Volevo solo dirle che nel mio mestiere incontro un sacco di imbroglioni. Non è il suo caso. Ecco, appunto, ci tocca anche un po' fare da sponda alle assicurazioni che qualche volta, anzi molto spesso, le consumatori vengono accusate di non garantire adeguati indennizi e risarcimenti quando il sinistro capita, motivo per il quale naturalmente un'assicurazione noi la sottoscriviamo, però è anche vero che l'attività, come dire, fraudolenta è una pratica nella quale molti italiani si cimentano anche molto volentieri, e questo è un danno soprattutto per il comparto dell'auto. Ne avremo di cui parlare questa mattina. Parleremo, appunto, lo avrete capito, non di Roberto Benigni che vuole truffare la sua assicurazione, ma parleremo di tutto il mondo assicurativo italiano, un'industria molto solida nel nostro paese che affronta però tante sfide. In primo luogo i nuovi bisogni delle persone, della clientela, la popolazione che continua ad invecchiare, c'è un processo demografico ineluttabile, inevitabile nel nostro paese. Poi il tema delle coperture sanitarie, la previdenza integrativa, il ramo auto. Abbiamo anche una situazione economica molto complessa che a volte, va detto, rende per le persone e le famiglie difficile fare delle scelte di protezione consapevoli, circostanza che porta ancora gli italiani a prendere spesso sotto gamba le forme assicurative per proteggersi dai rischi contro gli infortuni, contro la perdita del lavoro, contro danni di ogni tipo, materiali e non solo. E allora ci sono molti spunti interessanti che noi abbiamo tratto dall'ultima relazione annuale dell'ANIA, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, e che oggi vogliamo condividere con voi, perché bene o male ognuno di noi ha a che fare con una forma assicurativa per l'auto, la casa, la persona, l'azienda, la famiglia. Tra l'altro, quello che per anni è stato anche un tema noto, l'RC auto che cannibalizza tutto il resto e quindi all'interno di un nucleo familiare si fa la polizza per l'auto e poco altro, continua ad essere un tema sempre d'attualità, anche se l'auto è il settore che in verità racconta almeno qualche buona notizia, perché da qualche anno i premi sono in riduzione e gli italiani provano a risparmiare con l'obiettivo di tagliare su questa voce di spesa, magari cambiando compagnia, scegliendo delle offerte migliori, andando sulle compagnie dirette. Un altro tema interessante è quanto spendono gli italiani per la sanità privata. Si parla in media di 1.400 euro l'anno a famiglia, e anche questo è un tema caldo perché viene rilevato come in Italia manchino degli strumenti di sanità integrativa adeguati. Insomma, quando si è seduta a questo tavolo aveva tantissimi dossier da affrontare la presidente dell'ANIA da qualche mese, Maria Bianca Farina, che salutiamo. Buongiorno presidente, benvenuta a Cuore Denari. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, io ho fatto un preambolo piuttosto articolato, ma d'altronde la sua relazione tenuta proprio la settimana scorsa lo era altrettanto, perché ci sono tanti temi da affrontare che sono molto cari agli italiani. Se volete potete scriverci dei messaggi su WhatsApp al 349-238-6666. So che per esempio il tema auto è molto caro ai nostri ascoltatori, mentre sono tanti altri temi a cui tiene la Presidente, appunto, Farina, che commenteremo questa mattina. Vorrei dare subito qualche cifra, Presidente, per dare un'idea ai nostri ascoltatori delle dimensioni di questa industria, perché è anche bene che si sappiano queste cose, no? Le assicurazioni italiane lo scorso anno hanno erogato in prestazioni agli assicurati qualcosa come il 9% del PIL italiano. Le imprese di assicurazione nel nostro paese detengono investimenti per quasi 700 miliardi, il 42% del PIL, un ammontare che fa dell'assicurazione italiana il principale investitore istituzionale del nostro paese. Un'altra cifra ancora, sempre lo scorso anno il settore ha raccolto premi per 145 miliardi. Eppure, dottoressa Farina, continuiamo noi spesso a parlare o a sentir parlare di un paese di sottoassicurati. Ma l'Italia è ancora così? Beh, dobbiamo distinguere. In effetti è ancora così, ma vediamo perché. Noi possiamo vedere nell'ambito assicurativo di fatto tre mercati. Il mercato vita, dove invece siamo tutt'altro che sottoassicurati. Come noi sappiamo, gli italiani sono un popolo di risparmiatori che si fida delle assicurazioni, tant'è che il 14% dei risparmi degli italiani è affidato a compagnie assicurative. Quindi questo è un mercato sicuro che dà fiducia agli italiani, e noi questa fiducia la ripaghiamo con rendimenti buoni e soprattutto con la certezza di restituzione di quanto investito, soprattutto per quanto riguarda i prodotti più tradizionali assicurativi. Quindi sul vita siamo addirittura in una condizione migliore che per i paesi europei, che rispetto al confronto con i paesi europei più sviluppati. Poi all'interno invece del mercato cosiddetto danni dobbiamo ancora qui fare una duplice distinzione. Da una parte c'è l'auto. L'auto è obbligatoria, quindi non c'è corsa, cioè tutti sono assicurati e è assurdo parlare di sottopenetrazione. Poi però c'è il mercato della cosiddetta protezione, che è un mercato che rende famiglie, imprese, il paese più sicuro, e qui invece siamo un po' il fanalino di coda del mercato europeo. Tenga conto che su questo fronte i nostri premi fanno lo 0,9% del PIL rispetto al 2, al 4 di altri paesi. Mm-hmm. E questo è il motivo, Presidente, per cui lei proprio nella sua relazione di settimana scorsa ha parlato di un'Italia che sconta ancora un ritardo significativo rispetto ai maggiori paesi avanzati in termini di diffusione delle coperture assicurative per i rischi della persona e dei beni. Questi sono i settori. È proprio così, perché tenga conto che un paese è sottoassicurato in termini di protezione, lo dice la parola stessa, no? È un paese meno protetto e che quindi si sviluppa con più difficoltà. Pensiamo a una famiglia. Se una famiglia media italiana oggi risparmia, per il 65% delle sue motivazioni risparmia per far fronte a rischi futuri. Ma pensi quanto sarebbe più efficiente acquistare una copertura assicurativa? E questo libererebbe quel risparmio per utilizzarlo al meglio, ma anche per investirlo al meglio, perché poi un risparmio che deve restare a fronte di rischi è un risparmio che deve essere liquido, non può essere investito nel migliore dei modi. Ma secondo lei gli italiani non si assicurano in questi ambiti perché c'è sfiducia nel prodotto assicurativo, che viene percepito come quello strumento che, del quale poi quando hai bisogno appunto non ti assiste come dovrebbe? È proprio un problema ancora un po' legato anche alle risorse da destinare alle coperture assicurative. Si fa l'obbligatoria appunto dell'auto, le poche altre necessarie, e quindi secondo lei le ragioni di fondo quali sono? C'è un po' dell'uno, un po' dell'altro. Per quanto riguarda però la sfiducia, mi lasci dire che qui proprio è un errore che il cittadino italiano fa. Non c'è un motivo uno per cui non si debba fidare. Comunque, di fatto, il cittadino italiano è portato a pensare che paga più di quanto riceve, e questo non è vero, perché non si rende conto del valore che compra quando si avvicina a una soluzione assicurativa. Intanto la serenità del subito, e poi quando arriva davvero un danno, quando arriva davvero un problema, di solito si benedice di avere una polizza che copra quel danno, certo. E la famiglia lì riparte, uh-huh, anche in casi molto difficili, molto severi, no? Si riparte almeno non avendo il problema economico sulle spalle. Devo dire, aggiungo anche un altro suggerimento a beneficio dei nostri ascoltatori, poi magari lei non me lo approva, dottoressa Farina, ma io lo do: le assicurazioni sono delle imprese, si può anche trattare in questo senso, qualche volta non è detto che banalmente si debba accettare la prima proposta che un assicuratore fa. Io ho visto molti casi in cui anche trattando un pochino ci si viene anche incontro, proprio perché si tratta appunto di imprese. Mi permette di darlo questo suggerimento? Certo che glielo permetto, tanto più se si riesce a identificare meglio la connotazione del rischio che corre, cioè noi possiamo connotare meglio il rischio, e più lo personalizziamo e più possiamo andare incontro nel misurarlo meglio e quindi nel apprezzarlo meglio. Questo c'è senz'altro, però ecco, secondo me va tenuto conto di un fatto fondamentale, che è quello che sta alla base dell'assicurazione. Una persona che compra una copertura assicurativa accede a una mutualità tra tutti gli altri suoi diciamo esposti allo stesso rischio, e riceve poi servizi che da solo non riuscirebbe mai ad avere. Quindi da una parte ha dei risarcimenti che potrebbero metterlo in difficoltà, perché poi a qualcuno di quella mutualità purtroppo l'evento avviene, si verifica. E quella persona, se è assicurata, prende da tutta la comunità quel tanto di risarcimento che lo rimette in pista, che lo solleva almeno dal danno materiale. Per non parlare poi di tutti i servizi che sempre più sono connessi le soluzioni assicurative che lui da solo non riuscirebbe mai ad approcciare. Ne parleremo quindi adesso. Si tratta di scoprire il valore della soluzione assicurativa. Gli italiani lo conoscono poco. Esatto, e poi comunque ecco, si tratta sempre di informarsi un po', e se riteniamo che una società, la prima alla quale ci rivolgiamo, non ci garantisca il servizio che chiedevamo, il mercato oggi è molto ampio, l'offerta è assolutamente concorrenziale nel nostro paese, per cui secondo me si trova poi anche la soluzione che fa al caso proprio. Detto questo, se poi proprio siamo totalmente scontenti, ci sono le società a cui segnalare magari comportamenti che non ci vanno bene, c'è l'ISVAP, che è l'autorità di controllo sul mercato, insomma le soluzioni oggi ci sono. Dottoressa Farina, vorrei fare un po' il punto anche della situazione su quello che sta succedendo in questi primi mesi del 2016, in cui le turbulenze finanziarie hanno dominato e stanno continuando a dominare la scena e probabilmente intaccano anche la redditività del comparto assicurativo, che oggi prova a gestire in qualche modo il problema dei tassi di interesse a zero. Allora, cosa rappresenta questo per un'impresa come l'assicurazione, che appunto assicura contro i rischi, e in uno scenario come questo le forme assicurative privilegiate dagli italiani quali sono? Quelle che ci indicava d'inizio trasmissione? Beh, tenga conto che fino all'anno scorso, fino a qualche mese fa, non c'è dubbio che i clienti cercavano più prospettive di rendimento che non c'erano più nei soli prodotti di tasso, cioè sia nei prodotti governativi che nelle obbligazioni. In un scenario di tassi a zero è evidente che il prodotto obbligazionario non è più quello che può assicurare i rendimenti per il futuro. I cittadini hanno cercato forme diversificate, quindi si sono rivolti più ai fondi, a strutture finanziarie un po' più complesse, un po' più rischiose, ma con più aspettativa di rendimento. E anche le compagnie hanno fatto la stessa cosa. Per quanto riguarda i loro portafogli di attivi investiti appunto per poter assicurare rendimenti e ritorni ai propri assicurati, hanno intrapreso un percorso di diversificazione. Per molto tempo le compagnie, soprattutto quelle italiane, hanno acquistato BTP, cioè i buoni del tesoro, del debito pubblico italiano, titoli di Stato italiani, perché davano buoni rendimenti. Oggi non è più così per un tema di mercato, e quindi le compagnie a fianco a questo tipo di investimenti, che non hanno certo abbandonato, però hanno aperto altre prospettive, quindi si sono rivolti ad investimenti cosiddetti alternativi, che peraltro sono preziosi per l'economia reale. Ci hanno cominciato a finanziare fondi di private equity, infrastrutture, finanziamenti alle piccole e medie imprese, però tenga conto sempre questo nei limiti del rischio e della sicurezza del risparmio da garantire. Proteggete il denaro clienti. Delle persone, quindi non potete neanche avventurarvi in investimenti che magari siano un po' più redditizi. Il rischio è sempre molto calcolato, certo, e molto tenuto sotto controllo e monitorato. Allora, è questo appunto a suffragare il fatto che dicevamo prima, le imprese di assicurazione in Italia detengono investimenti per quasi 700 miliardi, quindi effettivamente avrebbero una capacità, anche se questo denaro potesse essere reimmesso completamente nell'economia reale, di chissà che tipo di movimentazione appunto creare, però è anche vero che avendo come obiettivo principale quello di proteggere le famiglie, è chiaro che non possono investire in ogni modalità possibile questi soldi, anche se sono appunto il principale investitore istituzionale italiano. Intanto ci sono dei messaggi degli ascoltatori. Dottoressa Farina, come ci aspettavamo, le assicurazioni quando devono pagare trovano mille cavilli per non farlo, si aprono appunto delle trattative che a volte per i consumatori magari un po' più deboli sono estenuanti, ma vi assicuro che alzando un pochino la voce qualche volta si tratta e si ottiene anche ragione. Non mi fido delle assicurazioni vita, perché se perdi un solo cedolino non ti rimborsano. Allora qui bisognerebbe un po' approfondire cosa è capitato a questo ascoltatore. Detto questo, quando facciamo dei versamenti magari abbiamo anche un po' cura della documentazione che attesti i pagamenti che facciamo, qua qualche volta dobbiamo bacchettare sulle mani dei consumatori che sono un po' distratti e magari non tengono cara, non conservano appunto la documentazione magari di operazioni anche finanziarie importanti della propria vita. Detto questo, ci sembra anche un pochino strano che, dottoressa Farina, magari l'assicurazione stessa non abbia traccia e visibilità dei pagamenti e dei versamenti che un assicurato faccia. Questo si può che pretendere. Sì, Sì, mi sentirei di escludere casi di questo tipo, ci deve essere stato qualcosa di molto particolare che non ha funzionato, perché è evidente che le compagnie hanno gli elementi per sapere se un, se un premio è stato pagato o no, quindi allora, insomma, andrebbe approfondito il caso singolo. Sì, avremo, sì. Abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare con lei, dottoressa Farina. Noi ieri ci siamo sentite tanto per scandagliare nell'ambito della relazione quelli che potevano essere, che è molto articolata e tocca tanti aspetti, quella tenuta la scorsa settimana, quali potevano essere questa mattina di maggiore interesse per i nostri ascoltatori. Noto adesso, dai temi che ci segnalano gli amici al 349-238-6666, che ne abbiamo tenuto uno fuori. Magari intanto glielo lancio, dottoressa Farina ci pensa se è il caso di affrontarlo o meno, magari solo con due parole a beneficio di chi lo chiede questa mattina. Le assicurazioni di responsabilità civile e professionale. Un medico ci segnala, per noi è sempre più difficile stipulare una copertura di questo tipo. Magari valutiamo se è anche il caso di scrivere a questo, di appunto dare due indicazioni a questo nostro amico. Andrei adesso invece alla previdenza complementare, alla previdenza integrativa, perché le forme pensionistiche complementari, lei settimana scorsa lo ha ricordato, non crescono per le ragioni che conosciamo bene. La crisi degli ultimi anni del mercato del lavoro ha fatto passare in secondo piano questo tema nella testa dei lavoratori, molti dei quali continuano a rinviare la scelta di meditare su quello che sarà il tenore di vita del futuro e quindi come integrare l'assegno pubblico che percepiremo, che per tutta una serie di ragioni sarà sempre più magro. Quanti sono, dottoressa Farina, ad oggi i lavoratori che aderiscono a piani individuali di previdenza che hanno matrice assicurativa? Sono i lavoratori che oggi aderiscono sono circa poco più del 25% del potenziale, e tenga conto che poi questo numero, che è un totale, non fa emergere alcuni temi di particolare rilievo, cioè la scopertura di alcuni segmenti particolarmente vulnerabili, per esempio i giovani. Per i giovani l'adesione è solo del 16%, i dipendenti delle PMI siamo al 10%, e purtroppo questo poi sarà un problema serio quando si arriva all'età della pensione, perché queste persone saranno ancora più esposte degli altri dal punto di vista della decurtazione della pensione rispetto alla retribuzione percepita a fine lavoro, e quindi saranno costretti a cambiare il loro tenore di vita se non penseranno per tempo come integrare quel reddito. Considerato l'invecchiamento a cui lei faceva riferimento poco fa, quindi il trend demografico che va chiaramente per noi italiani ancora più che per gli altri in quella direzione, il tempo della pensione sarà lungo e non è detto che sarà un tempo anche di piena salute, quindi ci sarà il tema di come finanziare anche le cure mediche che serviranno, perciò la pensione sarà preziosa. Da una parte per mantenere il tenore di vita, dall'altro per avere accesso alle cure che nell'età più avanzata sicuramente servono. Ma secondo lei cosa è necessario fare per sviluppare maggiormente una sensibilità su questo tema, sempre tenendo ben presente il fatto che i giovani soprattutto lamentano di non avere risorse da dirottare alle forme previdenziali assicurative? C'è una risposta che il sistema dovrebbe dare secondo lei? E le chiedo anche, l'INPS sta andando nella giusta direzione con l'operazione La Tua Pensione, che noi abbiamo ribattezzato alla Nord dica la busta arancione? Allora, rispondo per prima alla sua seconda domanda. Sicuramente va nella giusta direzione quello che sta facendo l'INPS, perché la prima cosa, ma proprio la prima, è la consapevolezza che gli italiani debbono avere della loro posizione poi pensionistica, in modo che possano fare consapevolmente la scelta più giusta. Quindi la prima cosa, sensibilizzare, far capire qual è il tema e le dimensioni che avrà. Poi c'è ovviamente quello che noi ci aspetteremmo e che chiederemmo, è un'agevolazione per chi volesse accedere a strumenti di previdenza integrativa. Gli incentivi fiscali sono fermi a quelli di tanti anni fa, la riforma Maroni nel 2006, insomma. Esatto. E in più, quindi vorremmo che quelli si ampliassero, che crescesse ancora di più il welfare integrativo aziendale, e che tutti fossero messi nelle condizioni di poter comprare. Ora è vero che per i giovani è difficile, però tenga conto che l'accumulo finanziario, diciamo, quindi la capitalizzazione, beneficia, dà molto beneficio a chi ne usufruisce per lunghissimo tempo. Quindi un giovane anche con 50 euro al mese può costituirsi un'alternativa buona, cioè come se avesse alla fine un altro TFR da impiegare per la propria pensione. Hanno il tempo che è il loro più importante vantaggio, i ragazzi. Esatto. E quindi per questo è importante cominciare presto, è importantissimo, magari con poco, poi quando si guadagna di più si integra. Ma iniziare presto è veramente il segreto per poi stare sereni nella parte più difficile. Cominciare della con vita. Poco e non avere la tentazione di smontare anche quel poco che viene pian piano fatto. Dottoressa Farina, noi adesso dobbiamo prenderci una piccola pausa perché devo raccontare cosa succede sui mercati questa mattina e poi andremo anche a tutti gli altri temi che abbiamo nella nostra scaletta, sono tanti, avremo l'auto, la sanità integrativa, altro tema delicatissimo per i nostri ascoltatori, ci sono degli sms anche molto interessanti da parte degli amici che ci seguono da casa, quindi a tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai, bigliettini con gli auguri mi scriverai, o bottiglie regalerai. E se tornassi. Tema della pensione è caldissimo, lo abbiamo affrontato anche questa mattina con Maria Bianca Farina, presidente dell'ANIA, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, toccando l'argomento previdenza complementare, quindi quali sono le forme che gli italiani possono sottoscrivere, quelle che hanno una matrice assicurativa, perché se no ci sono i fondi pensione chiusi e aperti, e poi tutti i piani individuali di previdenza che invece appunto sono prodotti, gestiti dal comparto assicurativo. Allora anche su questo avete molte cose da dire, ma più che altro il tenore, come ci aspettavamo, delle osservazioni che arrivano dagli ascoltatori è quello di dire sì, noi saremo anche sensibili, saremo anche intenzionati a proteggerci contro tutte le eventualità negative nella vita che possono capitarci, ma poi come sempre le assicurazioni tirano fuori i cavilli per non pagare. Detto questo, allora a me non interessa nulla fare la puntata per sponsorizzare il settore assicurativo italiano, c'è da dire che però, e questo lo so per certo perché me lo hanno raccontato molte persone, non solo le compagnie, che per esempio in questi ultimi anni di perdite, troppe perdite di posti di lavoro per molti italiani, tutti quei lavoratori che avevano avuto la lungimiranza ma anche la risorsa economica per farlo, di sottoscrivere polizze contro la perdita del posto di lavoro, in realtà sono stati con grande soddisfazione indennizzati dalle compagnie specializzate in quel campo, che hanno veramente dovuto gestire tantissimo casi, e quindi questo è un ambito in cui poi invece questo mondo funziona. È chiaro che voi ci state scrivendo questa mattina le tra virgolette patologie, i disservizi a chi invece ha avuto un rapporto buono con una compagnia per il quale è stato particolarmente soddisfatto, magari un po' meno siete invogliati a raccontarcelo, però ci piacerebbe sapere anche quando un caso invece in questo senso si è concluso bene, e questo è il mio commento. Dottoressa Farina, auto e dintorni, anche se so che non è proprio il settore che la appassiona di più, perché allora perché no è un settore importante, non diciamo così, no, perché tanto abusato, più che altro ecco, un po' inflazionato, mi passi il tempo parli solo di questo. Questo e invece ecco. Insomma il vostro mondo è veramente variegatissimo e quanto è ampio, sì. Allora, nella sua relazione di settimana scorsa lei ha indicato che l'RC Auto, con oltre 14 miliardi di premi raccolti, continua ad essere il più importante fra i rami danni, e questo lo dicevamo vero anche prima. Le imprese, anche in conseguenza dei risultati tecnici positivi, hanno continuato nel 2015 a poter applicare riduzioni significative nelle tariffe. I premi, esatto, del settore in 3 anni sono calati del 20%. Ma c'è una parte di tutto questo mondo del quale lei non è ancora molto soddisfatta, direi. Frodi troppo alte. Purtroppo. Come sì. Cambiamo la testa degli italiani? Dobbiamo cambiare la testa di alcuni italiani. Per fortuna gli italiani non sono tutti, anzi, nella maggior parte sono delle persone per bene, però purtroppo le frodi in campo auto sono ancora molto alte. Queste ci discostano ancora molto in termini di prezzi, che poi necessariamente in qualche modo non possono non rifletterle rispetto ai nostri pari europei. Quindi la lotta alle frodi e nella convinzione che poi una frode la pagano tutti i cittadini, la polizza auto è obbligatoria e ci deve essere un equilibrio evidentemente tra premi incassati e sinistri rimborsati. Quindi frodare le assicurazioni poi significa frodare tutti i cittadini italiani, questo bisognerebbe rifletterlo di più e soprattutto poi combattere chi proprio non ha questo senso civile. Altro tema però per cui le nostre assicurazioni sono un po' più care rispetto ai paesi europei, questo mi piacerebbe metterlo in evidenza, è che il nostro sistema risarcitorio al di là delle frodi è proprio più ricco. Prendiamo ad esempio, noi di grande attualità, il caso delle ragazze dell'Erasmus che in Spagna hanno avuto la ringrazio per aver citato spontaneamente questo caso, dottoressa Farina, perché appunto c'era qualcuno che ce lo segnalava e vorrei ricordare che in questo caso quel risarcimento scandaloso proposto in Spagna era dell'assicuratore spagnolo, non era una compagnia italiana, mi sbaglio? No, è proprio così. In Italia quelle ragazze avrebbero preso i parenti, ovviamente avrebbero preso dei risarcimenti pari a 4-5 volte quello che hanno preso oggi in Spagna, proprio perché le prestazioni delle nostre polizze sono più importanti. Ed è chiaro che una prestazione maggiore poi si riflette di nuovo nei prezzi maggiori, però poi quando accade una tragedia di questo tipo, almeno, ripeto, il danno materiale, perché quello morale non c'è nessuno, assolutamente non indennizzabile in alcun modo. Assolutamente, però almeno c'è come ripartire, come andare avanti dal punto di vista economico. Ora, è giusto che noi abbiamo un sistema più ricco? Su questo possiamo dibattere quanto vogliamo, però quando ragioniamo sui costi dell'auto, di questo dobbiamo anche tener conto, che noi abbiamo un sistema che indennizza tanto di più rispetto al resto, quindi se paghiamo un po' di più una motivazione. Allora, se tutti poi, come dire, superassimo con un po' più di serenità il tema della privacy, accettassimo di installare nella nostra auto la scatola nera, questi prezzi potrebbero ridursi, almeno nelle promesse e negli auspici del settore, potremmo spendere ancora meno. Il tema è che c'è questo dibattito in corso da tempo sull'obbligatorietà dell'installazione appunto in auto della black box. Dottoressa Farina, c'è Oscar da Varese che ci chiede, ecco, proprio è proprio perfetto questo messaggio per questa parte della nostra conversazione. Sulla scatola nera ho chiesto a degli agenti di assicurazione, quindi si è fatto fare un po' di chiacchierate, ha chiesto qualche preventivo, ma in realtà vedo ancora molto titubanti le stesse compagnie che non sono in grado di farmi dei preventivi che la comprendano. Capisco che non sia ancora obbligatoria, ma come mai molte compagnie non sono ancora pronte? Ma questo non mi risulta, a dire la verità, non c'è compagnia che rifiuti la scatola nera, anzi, tutte la auspicano, perché poi intanto c'è da dire che un cliente che sceglie la scatola nera generalmente ha un bello è un sconto. Cliente che già per questo, no, è un cliente più attento, più prudente, no, di altri. Quindi non mi risulta che magari non scende così tanto il prezzo, ma non che venga rifiutato, non mi risulti. Allora, mi risulta Oscar troppo. Magari ci scriva un messaggio in privato se lo ritiene, così ci dica se magari ci ha un po' abbleffato e non ha fatto poi tutte queste chiacchierate con tanti agenti di assicurazione, ma magari se sono due compagnie un po' più piccoline che magari davvero non sono pronte, oppure era un agente quello al quale si è rivolto che non era particolarmente ferrato sulla materia, allora magari ecco un caso da approfondire. Quindi tutte le compagnie, da quello che gli risulta, dottoressa Farina, raccolgono ben volentieri il cliente che chiede l'installazione. Tenga conto che noi siamo i primi al mondo per installazione di scatola nera, cioè l'Italia finalmente ha un bel primato. Certo. E Andrea intanto ci scrive: vi informo che con questa compagnia, ne cita una, mettendo la scatola nera, ho avuto addirittura una quotazione, un premio proposto inferiore alla migliore delle assicurazioni online. Per cui vedete che poi sì, sono brutte e cattive le assicurazioni, ma qualcuna in realtà sta cercando di cambiare pelle, insomma tutto il sistema almeno ci prova. Poi ovviamente le problematiche rimangono, noi siamo qui anche per parlare anche di quelle. Traffico, a proposito di scatole nere e chi viaggia di RC Auto, tra pochissimo. Cuore e denari. Facciamo la rivoluzione. se ci va, ma niente come stare nella macchina. Stiamo cominciando a definire alcuni dei contorni di questo caso scatola nera, no, perché Giulio ci segnala: ho chiesto scatola nera ad una compagnia, non la cito, mi hanno risposto a Varese di no, perché sono già nella classe di merito, nella classe più bassa. È possibile, dottoressa Farina, questo aspetto lo conosce? Adesso non le chiedo di essere così proprio la depositaria di tutto l'ABC della scatola nera, comprensibilmente. Magari approfondiremo anche con un esperto questo aspetto. Quindi in realtà qualcuno che dice di no per certe questioni di carattere tecnico. Io pure mi informerò meglio, sì, perché io poi parlo di sistema. Il sistema è sicuramente favorevole, auspica. Poi che qualche compagnia non abbia aderito a queste cose ci può stare, quindi non voglio essere nemmeno così imprecisa, assoluti. E anche mi informo imprecisa. Meglio e lo faremo anche sapere. A noi. Allora, intanto chi si lamenta che pur non avendo mai avuto incidenti il premio rimane ancora inspiegabilmente troppo alto per i propri gusti. Volevo solamente segnalare a Paolo da Torino, che ci aveva chiamato, non lo mandiamo in onda perché è una situazione la sua un po' delicata, che ha a che fare appunto con una moglie con una malattia molto seria e un piccolo conflitto con l'assicurazione, anzi un conflitto abbastanza importante per una questione di rimborso giornaliero per ricovero. Allora Paolo, mi sembra anche non rispettoso da parte nostra nei suoi confronti mandarla in onda su questo caso così delicato. Se lei ha pazienza ci scriva a cuoredenari@radio24.it, ci dia anche i termini della questione, il nome della compagnia di assicurazione, magari andiamo ad indagare un po' di più sul perché le hanno dato la risposta che le hanno dato e che lei ci scrive. Allora, introduce Paolo la questione malattie, dottoressa Farina, un capitolo delicatissimo della sua relazione di settimana scorsa. La spesa sanitaria privata nel 2015 supera i 35 miliardi e sono 1.400 euro a famiglia. È una spesa privata importante e non sostenuta da strumenti di sanità integrativa, ma pagata direttamente dalle persone. Ci aiuta a capire questa considerazione che ha fatto all'Assemblea? Molto semplicemente è incredibile come gli italiani spendano di tasca propria così tanti soldi e non pensino a acquistare, probabilmente con meno soldi e con più efficacia, una copertura assicurativa. Tenga conto però che qui c'è un discorso più ampio da fare, nel senso che lei pensi molta di questa spesa va a coprire prestazioni che già garantirebbe il sistema sanitario nazionale, quindi c'è addirittura una sovrapposizione di costi, il cittadino in qualche modo paga due volte, una volta perché paga le imposte che poi servono a finanziare la sanità pubblica, dall'altra paga direttamente le prestazioni. Quindi qui c'è da fare un discorso più di sistema. Noi stiamo dialogando, vogliamo dialogare, vogliamo proporre un modello integrato, come peraltro in tutto il resto d'Europa e molti dei paesi europei, tra pubblico e privato, che definisca quali prestazioni dal pubblico, quali prestazioni danno i privati. E tra i privati è ovvio che chi appunto gestisce in maniera comunitaria, in maniera appunto di ripartizione tra tanti, il costo sono proprio le assicurazioni e che potrebbero integrare in modo eccellente quello che il sistema integrativo, il sistema nazionale fa e che deve rimanere a presidio basilare della salute, no? Ma l'integrazione chi più di una compagnia di assicurazione può garantire. Un conto sono gli strumenti di sanità integrativa, dottoressa Farina, un altro conto sono invece quegli strumenti assicurativi per andarci a tutelare quando non saremo più autosufficienti, tutto quel mondo delle cosiddette long term care. Glielo voglio introdurre subito perché ci rimangono 4 minuti di tempo prima dei saluti e c'è questa bella considerazione di un'amica che ci scrive da Padova che ci racconta: sono una donna di 45 anni, dipendente di una piccola azienda. Non ho figli, non sono sposata e sto immaginando il mio futuro in cui dovrò gestire da sola la mia vecchiaia. Mi sto facendo fare dei preventivi per queste polizze long term care che mi possano pagare eventualmente un'assistenza sanitaria se dovessi averne bisogno. A prescindere dai costi molto elevati che potrei anche permettermi, ho però notato un'offerta molto restrittiva e condizioni delle polizze super standardizzate, per dire pagano la retta eventualmente se c'è bisogno di una residenza sanitaria a patto che tu sia veramente sente incapace di intendere e di volere. Io, dottoressa Farina, ho scritto circa un anno fa questo mio libricino Donne di Denari, in cui lo stesso era andato un po' ad indagare in questo mondo, quindi gli strumenti migliori per una donna che volesse immaginare di proteggere la sua vita autonomamente, appunto in prospettiva in vecchiaia, e avevo notato esattamente la stessa cosa. Non c'è un'offerta proprio strabiliante in questo campo. È stata una mia impressione, un giudizio superficiale? Si può fare qualcosa di più? Ma guardi, secondo me l'offerta c'è ed è adeguata. Il punto è che siamo sempre lì, non c'è la domanda. Nel senso che oggi le persone che si assicurano sono posto poche e quindi la compagnia non usufruisce di economie di scala, quindi i prezzi sono un po' più alti, perché stiamo parlando sempre di mutualità. Se ci assicuriamo in 100, dividiamo il risarcimento a quell'uno che capiterà tra 100. Se ci assicuriamo in 1000 lo dividiamo tra 1000, se ci assicuriamo 1 milione lo dividiamo tra 1 milione. Questa è la base del concetto assicurativo, no? Quindi più ci assicuriamo, più le cose saranno efficienti, cioè pagheremo meno a fronte di prestazioni che invece si arricchiscono sempre di più. Tenga conto che mentre finora, no, anche su questo tema che è importantissimo, che riguarda la non autosufficienza, che purtroppo sta crescendo a tassi elevati con l'allungarsi, no, delle prospettive di vita, ripeto, è un tema importante e oggi le compagnie lo risolvono dando una rendita a chi poi capitasse in queste condizioni, a chi si trovasse in queste condizioni, una rendita per sostenere le spese di chi poi badi a chi non è più autosufficiente. Tutte le compagnie ormai stanno andando in una direzione di dare direttamente il servizio, quindi la proposizione, il valore si arricchirà ancora di più, perché ci saranno da parte delle compagnie assicurative l'erogazione diretta dei servizi di assistenza, quindi che saranno ben selezionati, ben orientati, no, alle effettive necessità di chi chiede quel servizio. Però insomma, interessante il ragionamento che faceva: un mercato che non decolla perché non c'è una domanda che lo spinge adeguatamente, per cui però qua è anche vero che non si sa se potremmo dire è nato il primo uovo o la gallina, o sono le compagnie che magari devono attivarsi un po' di più anche per sensibilizzare con un'offerta ad hoc un po' di più i potenziali sottoscrittori su questa prospettiva della vecchiaia, che potrebbe avere mille necessità, oppure al contrario se è un mercato che deve partire sensibilizzando l'industria, appunto, a proporre anche adeguati strumenti in questo senso. Sarà un bel tema per un'altra bella puntata articolata, dottoressa Farina. Noi stiamo andando verso la chiusura, però ecco, dovevamo rispondere a quel famoso medico che ci ha chiesto all'inizio sull'assicurazione della responsabilità civile professionale. Molto difficile per quella categoria, 20 secondi è purtroppo. È vero, ma è molto difficile anche per le compagnie. Tenga conto che è un sistema che non funzioni e del quale anche lì bisogna ritrovare l'equilibrio. Oggi le compagnie perdono tantissimo su queste coperture, quindi ed è per questo che poi non sono così contente di darle. Ci sono però delle iniziative parlamentari che vanno nella giusta direzione e di queste noi le condividiamo, salvo qualche miglioramento ancora, proprio per arrivare a far sì che il tema della responsabilità civile dei medici sia un tema che stia possa camminare sulle proprie gambe. Ha un mandato con un'agenda molto ricca, presidente Farina. Purtroppo devo salutarla perché sente la sigla di chiusura che sta arrivando. Filippo Aureggi è assolutamente rigidissimo e la ringrazio molto per essere stato con noi. Maria Bianca Farina, presidente dell'ANI, Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione. Cuore e Denari torna domani. Buona giornata a tutti.